Euroreportage. Emergenza immigrazione 2016, l'anno della grande crisi? Di Sergio Nava. Buongiorno, bentrovati da Sergio Nava a Plac Europejski a Varsavia. Qui ha sede l'agenzia comunitaria per la gestione delle frontiere Frontex, in un nuovissimo grattacielo che si staglia tra i tanti nella nuova skyline di una Varsavia che vuole mostrarsi sempre più moderna. Ma Plac Europejski è involontariamente anche un'amara metafora di un'Europa ancora in costruzione, anche e soprattutto nella gestione delle frontiere e delle politiche migratorie comuni. Questa piazza, lo state sentendo, è un cantiere a cielo aperto dove si sta lavorando e in alcuni casi mancano persino le fondamenta, esattamente come l'Europa di oggi. Your position. 33, yes. 5-1. And then under. Okay, 80-72. Okay, so save your battery, I will call you back. Abbiamo preso in prestito il trailer di Fuoco a Mare, docufilm di Gianfranco Rosi, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, per introdurre questo Euroreportage che prende il via con l'intervista che abbiamo realizzato a Fabrice Leggeri, direttore di Frontex. Proprio in quelle ore Frontex rendeva note le ultime stime sugli arrivi di migranti a gennaio. Quelli approdati in Grecia erano 68.000, il 40% in meno rispetto a dicembre, ma rispetto a gennaio 2015 il numero risultava di 38 volte superiore. La rotta mediterranea che arriva in Sicilia ha visto 5.600 immigrati approdare sulle nostre coste, il 55% in più rispetto a gennaio 2015. Per prima cosa abbiamo chiesto a Fabrice Leggeri quanto sia elevato il rischio di un'estate 2016 ancora più critica sul fronte degli arrivi rispetto a quella di un anno fa. Well, it is always difficult to predict. È sempre difficile prevedere i flussi migratori, afferma Fabrice Leggeri a Radio 24. Il trend nel 2016 è già elevato. Dall'inizio dell'anno a livello europeo ci sono stati oltre 140.000 attraversamenti irregolari alle frontiere e sulla rotta del Mediterraneo centrale c'è stato un aumento di oltre il 50% sull'anno. Quindi, se quest'anno avremo lo stesso livello di pressione a livello europeo, beh, in tutta franchezza non ne sarei sorpreso. Non mi aspetto un incremento, ma dobbiamo essere consapevoli anche della possibilità di un cambio di rotta dal Mediterraneo orientale, per esempio, a quello centrale. Dobbiamo essere flessibili nella gestione delle frontiere esterne, così da essere in grado di reagire qualora si verificasse questo spostamento nelle rotte. There is a shift from the Eastern Mediterranean route to other routes. Avete osservato una riduzione nei flussi dalla Turchia dopo la firma del piano congiunto Bruxelles-Ankara, chiediamo a Leggeri. For the time being, there are many. Al momento ci sono molti attraversamenti irregolari della frontiera tra Turchia e Grecia. Siamo a livelli alti nonostante la stagione, dice. Ci aspettiamo che il piano congiunto tra Europa e Turchia abbia effetto, per cui dobbiamo essere pronti ad affrontare cambiamenti nei flussi di immigrati. In ogni caso, per il momento non c'è un calo nel numero di attraversamenti irregolari tra Turchia e Grecia. Questo non posso proprio dirlo. To Greece, so I cannot say. La Grecia è finita nel mirino dell'Europa per la gestione delle frontiere. Atene avrà tempo fino a maggio per migliorarla. Questo ha migliorato la vostra cooperazione con la Grecia? Well, Frontex right now is deploying 775. Frontex ha dispiegato 775 guardie di frontiera nell'ambito dell'operazione Poseidon, dice Leggeri. Si tratta della maggiore operazione della nostra storia. Abbiamo 15 imbarcazioni che pattugliano l'Egeo e abbiamo mezzi aerei. La cooperazione è difficile anche per questioni geografiche. La gestione delle frontiere è una sfida per tutti ed è per questo che abbiamo migliorato il nostro lavoro. Le autorità greche collaborano con noi, chiedono il nostro aiuto, ma le sfide sono davvero importanti. Nessun paese europeo avrebbe potuto farcela da solo se confrontato con l'incremento sperimentato dalle autorità greche. Could cope with such an increase. L'Italia è preoccupata da una possibile riapertura della rotta dell'immigrazione tra Albania e Puglia, qualora i paesi dell'Europa centro-orientale dovessero realmente chiudere le frontiere. È un'eventualità concreta, secondo voi? We have to be flexible in that. Dobbiamo essere flessibili nel 2016. Le rotte migratorie possono cambiare molto rapidamente, afferma Fabrice Leggeri a Radio 24. A inizio febbraio ho concordato con le autorità italiane che il piano operativo di Triton 2016 estenderà l'area a nord nell'Adriatico. L'anno scorso ci siamo focalizzati su Sicilia e sud della Puglia, ma ora offriremo la possibilità di attivare aree operative nei pressi dell'Albania e del Montenegro, se ce ne fosse bisogno. We are ready. I trafficanti di esseri umani sono già pronti, secondo lei, ad aprire la rotta albanese? Everywhere, if there is a... Dovunque si aprono opportunità di business, i trafficanti si adattano, dice Leggeri. Per questo le operazioni Frontex e nazionali devono anche adattarsi. Al momento non ci sono evidenze di preparativi in questo senso, ma dobbiamo essere pronti. In Albania o somewhere in the Western Balkan. But we have to be ready. La Commissione europea ha presentato nei mesi scorsi una proposta in grado di cambiare radicalmente il profilo di Frontex, trasformandolo in una vera e propria guardia di frontiera e marittima comune. Come cambierà Frontex? Chiediamo a Leggeri se a giugno arrivasse l'ok definitivo dei 28 paesi europei. La proposta che la Commissione ha presentato a dicembre va nella giusta direzione, afferma Leggeri. Il valore aggiunto sta nella maggiore integrazione della gestione delle frontiere. Lo stesso nome della nostra agenzia cambierebbe. Anche la cooperazione tra guardie di frontiera, dogana e altre agenzie risulterebbe rafforzata. Frontex avrebbe anche più poteri per influenzare la governance nella gestione delle frontiere. La Commissione ha proposto che noi possiamo decidere misure obbligatorie per i Paesi membri. Questo è un passo avanti che ci permetterà di anticipare le crisi anziché semplicemente reagire quando è già troppo tardi. Sia chiaro, non intendiamo obbligare solamente un Paese a fare qualcosa, ma lo aiuteremmo anche a fare. Fabrice Leggeri ha toccato, lo avete ascoltato, uno dei punti più controversi della proposta della Commissione che, in un'Europa ancora molto gelosa delle prerogative sovrane nazionali, metterebbe potenzialmente la nuova Frontex in rotta di collisione con i ministeri dell'interno dei Paesi membri. Quanto l'Europa potrà obbligare un paese di confine a intraprendere determinate azioni? Staremo a vedere. Entro giugno la presidenza olandese dell'Unione intende chiudere l'accordo. Noi invece ne approfittiamo per fare il punto su cosa sia adesso Frontex. Lo facciamo con la portavoce Isabella Cooper. Frontex è un'agenzia europea che si occupa del coordinamento del dispiegamento dei mezzi tecnici, quindi di elicotteri, navi, pattugliatori, come pure le guardie di frontiera a quei paesi dell'Unione Europea che si confrontano con la pressione migratoria importante. Ad esempio, in Grecia, dove la situazione migratoria diciamo è più difficile, Frontex dispiega 770 guardie di frontiera, circa una quindicina di pattugliatori, due elicotteri, degli aerei, e in totale ci sono 26 stati membri che partecipano in questa operazione, l'operazione Poseidon. Quindi il nostro ruolo è quello di assistere tecnicamente, in modo tecnico, quegli stati membri che si trovano in difficoltà. Una delle operazioni più importanti per l'Italia è la missione Triton o Tritone, che opera invece a sud della Sicilia. Qual è la situazione attualmente? Al presente Frontex dispiega quasi 300 guardie di frontiera, quindi sono dei poliziotti, dei cosiddetti screeners, quindi quelli che assistono le autorità italiane a identificare i migranti, a condurre interviste, a raccogliere intelligence diciamo sulle reti dei trafficanti che operano in Libia o in altri paesi. In più dispieghiamo 3 elicotteri, 3 aerei e 9 pattugliatori. Tutti i nostri mezzi e tutti i poliziotti operano sotto il comando delle autorità italiane. Quante vite avete salvato in mare grazie all'operazione Triton lo scorso anno? L'anno scorso Frontex ha salvato 59.000 vite umane. È un settore importante nel lavoro di Frontex, è costituito dall'analisi e prevenzione del rischio dei flussi migratori. Di questo si occupa l'italiano Antonio Saccone, capo dell'analisi operativa a Frontex. Sentiamo allora cosa si muove sulla grande mappa dei flussi di migranti verso l'Europa. Dipenderà molto quello che succederà nell'anno in corso dallo svilupparsi di questa percezione nell'attitudine dei migranti. Cioè se i rifugiati e i migranti che sono arrivati in Turchia o che stanno per uscire dalla regione, diciamo, dei paesi, dalla Siria o dai paesi limitrofi e che vogliono, che hanno intento di andare in Europa, percepiscono che ci sono limitazioni al loro movimento sulla rotta via terra attraverso la Macedonia, la Serbia e la Croazia, potrebbe questo risultare da una parte in una riduzione dei flussi parziale. Perché quelle persone che non sono così, diciamo, in condizioni così negative, potrebbero decidere di rimanere accampati o nella regione per più a lungo, o potrebbe creare una deviazione della rotta verso le coste italiane, o direttamente dalla Turchia, come abbiamo visto in passato, o attraverso viaggi che dalla Turchia poi vanno verso le coste egiziane e attraverso dall'Egitto poi passando a largo di Creta vengono sempre verso l'Italia, o potrebbero tentare di raggiungere le isole greche e una volta raggiunta le isole greche e la terraferma poi provare a transitare via mare o attraverso le navi di linea che collegano i porti della costa greca con la costa ionica e adriatica italiana, oppure addirittura cercare di risalire verso l'Albania. È una possibilità che per noi è un po' meno probabile, ma è sempre possibile, e quindi cercare di venire verso l'Italia via mare. Questo è uno scenario. Quanto ai numeri, anche i numeri dipenderanno dalla percezione. Noi ci attendiamo che se i numeri potrebbero diminuire sulla rotta di terrestre dei Balcani, sicuramente ci attendiamo che una gran parte di queste persone possano tentare di raggiungere altre zone, per esempio la Libia, oppure, ecco, come ho detto prima, avere questa diversione dalla Grecia, per cui i flussi globali potrebbero mantenersi sugli stessi livelli di 2015. Ricordiamo solo quanti migranti avete stimato totalmente nel 2015 verso l'Europa. Noi facciamo un'assunzione, diciamo un calcolo approssimativo di circa 1.000.000 persone che sono entrate illegalmente nell'Europa. Andando alla rotta tradizionalmente più conosciuta dall'Italia, cioè la rotta del Mediterraneo centrale, che approda di fatto principalmente in Sicilia, qui cosa prevedete? Nel 2014 e nel 2015 abbiamo avuto più o meno 150.000 persone. Però cosa è successo? È successo che è cambiata la composizione dei flussi migratori. Nel 2014 la maggior parte delle persone che venivano su questa rotta dalla costa libica verso l'Italia erano in gran parte siriani, con un grosso numero di persone che venivano dalla Eritrea e dalla Somalia, dal Corno dell'Africa, e una piccola percentuale di persone che venivano dall'Africa subsahariana. No? Nel 2015 i siriani sono spariti. I siriani hanno probabilmente ritenuto troppo pericoloso l'attraversamento di questo tratto di mare, per cui le cose si sono polarizzate. Abbiamo avuto i siriani che andavano su lungo la rotta asiatica verso le isole greche, e la rotta della Libia è rimasta una rotta di esclusivo appannaggio di persone che venivano dall'Africa, dai paesi africani. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.